Noi stiamo lavorando nei tavoli provinciali per raccogliere le necessità che ci sono nei vari territori rispetto a un ulteriore potenziamento dei mezzi. Siamo nelle condizioni di incrementare ulteriormente la flotta di bus, sia urbani che extraurbani, che abbiamo già incrementato di 350 mezzi dal 14 settembre. Ne recupereremo ulteriori 100, forse anche 120, per essere appunto pronti il 7 di gennaio a riportare a scuola almeno il 75% degli studenti delle scuole superiori con il 50% della capienza dei mezzi. Naturalmente è necessario anche una disponibilità, che stiamo naturalmente raccogliendo nei tavoli, da parte del mondo della scuola a flessibilizzare gli orari con qualche scaglionamento che ci aiuterà appunto a fare meglio il nostro lavoro. Da solo l'aumento della flotta appunto degli autobus potrebbe non bastare per evitare l'affollamento? No, l'aumento dei bus è naturalmente importante perché ci consente di fare un passo in avanti importante, ma non è sufficiente perché, come dire, col 50% della capienza dei mezzi e con almeno il 75% della didattica in presenza noi dovremmo quasi raddoppiare il numero dei bus, cosa ovviamente impossibile. Anche se avessimo tutte le risorse immaginabili, non sarebbe una cosa tecnicamente, materialmente praticabile, per cui l'incremento dei mezzi ci sarà, c'è già stato. Con questi ulteriori 120-130 mezzi arriveremo quasi a 500 mezzi in più, ecco, rispetto alla situazione ordinaria. Però ecco, ci vuole appunto anche una maggiore flessibilità da parte della scuola in termini di orari, di scaglionamenti. Ora non sono io naturalmente che deve dire come, ma questo appunto avviene nei tavoli provinciali, dove si cerca appunto di tenere insieme le esigenze trasportistiche e quelle scolastiche. Sappiamo che a causa della pandemia le aziende, anche quelle diciamo con maggioranza pubblica dei trasporti, stanno vivendo forti problemi ovviamente anche economici e finanziari. Da questo punto di vista il sistema in Emilia Romagna riuscirà a tenere o rischia anche nella nostra regione? No, il sistema in Emilia Romagna tiene, perché le aziende che hanno subito ovviamente un contraccolpo pesante dalla crisi pandemica, perché le entrate sono crollate. Poi fra l'altro l'Emilia Romagna è una regione virtuosa, dove il bilancio delle aziende pubbliche di trasporti è fatto per il 30-35% dagli incassi, dalle bigliettazioni, degli abbonamenti. Quindi essendo crollata questa voce di entrata, è chiaro che i bilanci sono in sofferenza, però il governo comunque ha garantito una parte delle risorse per coprire appunto i mancati ricavi. Ce ne vorranno altre, mi auguro che arriveranno, sono certo che arriveranno. In ogni caso le nostre sono aziende sane, sono aziende robuste, sono aziende ben capitalizzate, che sono in grado di sopportare anche una stagione come quella che abbiamo trascorso, che stiamo purtroppo ancora trascorrendo, legata appunto all'emergenza sanitaria, che poi è anche un'emergenza di carattere economico. Quindi da questo punto di vista non ci sono problemi, perché abbiamo aziende che sono, nonostante le difficoltà legate appunto alle mancate entrate, in grado di non avere da questo punto di vista nessun tipo di problema e preoccupazione, perché sono solide, quindi in grado di continuare a fare il loro lavoro e a garantire i servizi. I trasporti prima dell'inizio di questa seconda ondata della pandemia sono stato spesso al centro delle polemiche per i sovraffollamenti. Avete previsto, ovviamente in accordo con le aziende, magari anche di aumentare i controlli? Beh, allora, i controlli sono un aspetto direi determinante e anche molto delicato, perché dunque a bordo dei mezzi i controlli vanno sicuramente potenziati, ma non sono certamente gli autisti o i controllori che devono fare rispettare le regole previste dai DPCM. Potranno tutt'al più segnalare, ecco, alcune situazioni di non rispetto delle regole. Io credo che però il problema dei controlli non sia solo e tanto sui mezzi, ma sia soprattutto alle fermate, perché è lì che si sono registrate le situazioni più problematiche dal punto di vista non tanto e non solo degli assembramenti, quanto ad esempio del non rispetto dell'utilizzo della mascherina. Quindi ai prefetti in questi tavoli noi abbiamo chiesto anche il potenziamento attraverso le forze dell'ordine appunto dei controlli sui mezzi, ma in particolare io dico alle fermate, alle stazioni dei bus e dei treni.